Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Gli atlanti geografici rappresentano il Karakorum come una grande ruga giustapposta verso nord-ovest, al fascio più ampio di catene montuose che contrassegnano l'Himalaya. Una ruga di oltre 800 chilometri, quindi un po' meno delle Alpi, diretta complessivamente da nord-ovest a sud-est e leggermente arcuata, che ospita ben 4 delle 14 montagne superiori a 800 metri di altezza. E fra queste anche la seconda cima del mondo, il K2. Sono parole di Ardito Desio, una leggenda dell'alpinismo, dell'esplorazione, dell'avventura, delle scienze geologiche in Italia. Professore emerito di scienze naturali, Desio ha diretto l'Istituto Nazionale di Geologia dal 1927 al 1972. Ha attraversato quasi un cinquantennio di storia d'Italia, coordinando decine di spedizioni e guidando importanti ricerche. Il momento più importante, forse, l'estate del 1954, la conquista del K2, la seconda montagna più alta del mondo. Oggi Destini Incrociati parte con la spedizione italiana che nel 1954 ha conquistato il K2. Esploreremo un universo incantato, severo e sovrumano, come quello degli 8000 del Karakorum, ma soprattutto respireremo il profumo di un alpinismo che non c'è più, uno sport fatto di uomini veri e di spiritualità, in cui la tempra d'acciaio, lo spessore morale di questi leggendari arrampicatori, sopperiva alla pochezza dei materiali. In questo scenario si intrecciano i destini di Walter Bonatti, da una parte, e di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, dall'altra. Un incrocio vertiginoso, destinato a segnare nel profondo i protagonisti. Fate un bel respiro e seguiteci. Oggi si viaggia ad alta quota. È la mattina del 28 luglio 1954. 5 alpinisti italiani, Erich Abram, Pino Gallotti, Ubaldo Rei, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, si staccano dal settimo campo base sotto la cima del K2 per andare a piazzare l'ottavo, il penultimo. Sarà il trampolino per il cielo, per la vetta. Solo 2 di loro saliranno. Si vedrà poi chi, in base ad energie e umore. Al settimo campo, invece, non brilla l'umore dell'unico scalatore che vi rimane. Walter Bonatti, il più giovane della spedizione, con il compito di fare da ponte tra i 5 di punta e gli altri uomini in appoggio. Com'era nata però questa spedizione? 2 mesi prima era partito per il Karakorum un gruppo di 13 alpinisti e 16 portatori, facenti capo ad Ardito Desio. Il loro compito? Conquistare il K2, la seconda montagna più alta del mondo. Questi uomini indistruttibili, impermeabili alla fatica, in questi 2 mesi vedono uno di loro perdere la vita, Mario Pucoz, che muore per un edema polmonare. Mario Pichot è morto il 21 giugno al campo 2. Per giorni la tormenta ha impedito ai compagni di riportare il suo corpo al campo base. Ma non appena la tempesta ha concesso una tregua, hanno disceso con lui il ghiacciaio vetroso che insieme avevano già superato. Era il più forte di tutti e il K2 lo ha ammazzato. Mario Pichot del Monte Bianco. Si tratta di un'impresa estenuante, durissima, attraverso la quale l'Italia, 9 anni dalla disfatta bellica, in pieno boom economico, in piena ricostruzione, materiale e morale, cerca di rilanciare la propria immagine nel mondo. Impossibile parlare dell'Italia del 1954 senza citare il fatto socialmente più rilevante, quello destinato a segnare indelebilmente usi e costumi del nostro paese fino ai giorni nostri. Il 3 gennaio di quell'anno, la RAI inizia le proprie trasmissioni televisive. Nasce un nuovo punto di raccolta domestico e sociale, una nuova abitudine, una nuova prassi comportamentale. Paradossalmente, la TV si afferma nell'anno d'oro del cinema italiano. Escono Senso di Visconti e La strada di Fellini, con cui l'Italia esce dalla stagione neorealista, ma continua a proporsi come paese di punta della settima arte in Europa. La paga media di un operaio è di circa 40.000 lire al mese. La Fiat mette in produzione la 600. Gronchi è presidente della Repubblica. Il 19 agosto muore Alcide De Gasperi. Il 5 ottobre Trieste torna all'Italia. È un anno denso, tachicardico, accelerato, come tutto il decennio dei 50. L'alpinismo inglese, spagnolo, francese hanno conseguito successi enormi. L'Italia vuole iniziare a colmare anche questo divario e si è lanciata nell'impresa spettacolare del K2 per dare un segnale di presenza a livello mondiale. Il professor Ardito Desio viene posto a comandare l'avventura. Gunther Oskar Dierenfurth, un grande alpinista ed esploratore svizzero dell'epoca, rievoca così la missione italiana. In Italia si sapeva bene che se non ci si fosse riusciti nel 54, l'anno dopo sarebbe stato di nuovo il turno degli americani. Quindi ora o mai più. E ci si mosse di conseguenza. I finanziamenti per questa immane impresa, ai quali partecipò anche lo Stato italiano, pare abbiano raggiunto 120 milioni di lire. Ardito Desio fa una ricognizione sul Karakorum nel 1953, insieme al grande alpinista Riccardo Cassin. Desio, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, sa di non poter sbagliare, a partire dalla scelta degli alpinisti. A sorpresa, però, punta sui giovani, ragazzi che non hanno alcuna esperienza di Himalaya o di 8000, ma hanno forza e coraggio da vendere. Come Lino Lacedelli, che il destino vorrà indelebilmente legato, nel bene e nel male, al nome del K2, e che rievoca così i febbrili giorni precedenti la partenza. L'obiettivo era questo, di fare una spedizione al K2. Per noi quello è stato detto, dobbiamo fare qualcosa per vedere se ci vogliono anche noi. La nostra fortuna è stata che noi ci siamo sempre preparati molto bene, molto accuratamente. Questo è stato un vantaggio che avevamo, anche per la grande passione che abbiamo sempre avuto per le nostre montagne. E io sono stato molto fortunato, perché non avrei mai sperato di andare fino in cima. Sperare di andare in spedizione, sì, ma è stata una grossa fortuna anche riuscire, perché nelle spedizioni himalayane non è facile, sono tutte molto difficili, e noi soprattutto abbiamo avuto delle grandi difficoltà perché l'inesperienza nostra, soprattutto la mancanza di materiali adeguati, e comunque noi abbiamo dato prova di riuscire in quegli anni molto difficili dopo la guerra di fare quello che è stato fatto. Lacedelli nasce a Cortina il 4 dicembre 1925. Desio lo descrive come un uomo alto, circa 1,78, di professione idraulico, guida alpina e maestro di sci. Fin da giovanissimo Lacedelli si cimenta con l'alpinismo, quasi una vocazione, un richiamo ancestrale. A 14 anni è in grado di tentare imprese impensabili. Proprio sulle Dolomiti Ampezzane ha avuto i suoi primi grandi trionfi ancora giovanissimo. Le Cinque Torri e la Tofana di Roses vengono violate da alcune delle sue straordinarie vie d'arrampicata. Sono imprese che gli valgono la convocazione in questa sorta di nazionale dell'alpinismo. Curioso pensare come negli stessi giorni della spedizione del K2, la nazionale più famosa, quella di calcio, capitanata dallo juventino Boniperti, rimedi una figuraccia nel Mondiale svizzero, il primo trasmesso in televisione, con gli italiani radunati nei bar a tifare per gli azzurri tra un gol, un bianchino e un disco dai primi jukebox. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la la, aprite le finestre al primo amore. Mentre gli italiani si preparano alla spensieratezza dell'estate con i balli e le vacanze al mare, gli uomini di Desio pianificano l'assalto finale alla vetta. l'impresa che li cambierà per sempre. Torniamo al campo base, in quel 28 luglio 1954. I piani erano chiari sin dall'inizio. Non tutti saliranno in cima, ma solo un piccolo gruppo, probabilmente due, forse tre. La selezione è avvenuta in maniera naturale, in base alle condizioni fisiche e alle contingenze. Tuttavia, ogni gruppo deve avere una figura deputata a decidere. Dal momento che Desio rimane nelle retrovie a coordinare la spedizione, viene nominato comandante per l'ultimo balzo alla vetta Achille Compagnoni, braccio destro di Desio, il più maturo del gruppo. Scopriamo chi è. Compagnoni è nato a Santa Caterina di Valfurva, sotto il passo dello Stelvio. È una guida alpina e un maestro di sci. Per 18 anni fa il militare, naturalmente negli alpini. Le sue imprese più epiche, però, le compie sul Cervino, la sua montagna, lo scoglio più impervio e nobile d'Europa. Sulle pareti del Cervino, Achille Compagnoni apre decine di vie, tutte fondamentali per la storia dell'alpinismo. Dei cinque alpinisti partiti dal settimo campo base per fissare l'ottavo, uno fa subito ritorno. Ubaldo Rei, dopo mezz'ora di cammino, riscende al settimo. Lacedelli e Compagnoni rimangono all'ottavo campo e attaccheranno la cima nei prossimi giorni. A fine giornata, infatti, scendono anche Pino Gallotti ed Eric Abram. La discesa di Gallotti è difficile e drammatica, quasi un sinistro presagio di quello che accadrà nei giorni successivi. A metà dell'ultimo pendio devono essersi formati due zoccoli sotto i ramponi. Così, ad un tratto, senza aver avuto il tempo di rendermene conto, scivolo di fianco. Faccio parecchi tentativi per piantare la piccozza senza successo. Quando ormai ho acquistato una velocità paurosa sul pendio, improvvisamente mi trovo voltato con la faccia a monte. Do un calcio deciso con la gamba destra. I denti anteriori del rampone fanno presa e qualche metro più sotto mi ritrovo fermo. Mi riprendo. Piano piano, e mi guardo intorno. Anche il mio angelo custode deve essersi preso uno spavento del diavolo e deve aver perso parecchie piume nella caduta. Questo racconto è tratto dal diario di Pino Gallotti e dà la misura della situazione di pericolo che questi uomini si trovano ad affrontare in quei giorni. Gallotti scivola durante la discesa, ma riesce ad arrivare al settimo campo. Da lì, il giorno seguente, proprio lui scorta Walter Bonatti all'ottavo campo per lasciare i rifornimenti che gli Hunza, i portatori pakistani, hanno recapitato. Soprattutto, però, scorta Walter Bonatti a incrociare il proprio destino con quello di Compagnoni e Lacedelli. Si incontreranno nella tenda per concertare il piano d'azione. Lì, a 8.000 metri d'altezza, tra i ghiacci e l'aria rarefatta, le vite di questi tre uomini stanno per fondersi e cambiare, per sempre. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta una storia verticale, in una puntata ad alta quota. Siamo a 8.000 metri, sotto la vetta del K2. È il 29 luglio 1954. Walter Bonatti, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, nella tenda dell'ottavo campo base della spedizione italiana alla conquista della seconda montagna più alta del mondo, stanno decidendo la strategia per l'attacco alla vetta del giorno seguente. Compagnoni, il più anziano del terzetto, è stato posto da Ardito Desio a capo delle ultime operazioni di conquista della vetta. Lino Lacedelli è stato scelto per accompagnarlo. Walter Bonatti, il più giovane della spedizione, probabilmente il più forte e il più in forma, in quel momento viene designato come supporto per l'ascesa. L'indomani dovrà scendere al settimo campo base, prendere bombole e viveri, risalire fino al nono, dove ritroverà i compagni. Almeno questo è il piano. Il destino e la mutevolezza della natura umana sono sempre in agguato. Intanto però andiamo a scoprire chi è Walter Bonatti. Ai nostri tempi, adesso sarà così forse anche oggi, ma ai nostri tempi non eravamo noi a scegliere uno sport. Cioè eravamo noi, ma non eravamo noi a scegliere. Noi sceglievamo lo sport dei nostri amici. I miei amici erano ginnasti della Forte Liberi a Monza, dove poi hanno fatto fuori il re Umberto I in una manifestazione ginnica. E la Forte Liberi era, sotto il profilo ginnico e nazionale, era molto importante, aveva creato molti olimpionici, eccetera. Quindi io, nell'età giusta, senza saperlo e senza volerlo, mi preparavo a fare l'arrampicatore, ma lungi dal pensare che avrei arrampicato. Ma voglio dire, nell'età giusta io mi sono creato fisicamente. Per me, quando ho cominciato ad arrampicare, per me stare con la testa in giù e le gambe in su era la cosa più normale del mondo. Quindi in questo senso sono stato molto avvantaggiato. Però poi passa poco tempo e tu capisci che l'alpinismo non lo fai tanto coi muscoli, ma col cuore e con la testa. Walter Bonatti nasce a Bergamo il 22 giugno 1930. Il passaggio dalla ginnastica all'alpinismo avviene nel 1948 sulle Prealpi Lombarde, quasi per caso. Ero al Pian dei Resinelli e sarà stato una domenica sicuramente, perché soltanto di domenica ci si muoveva allora. E affascinato, io andavo per la direttissima, il canalone Porta, quelle cose lì insomma. Ed ero davanti al Nibbio, davanti alla via Cassin e la via Campione d'Italia mi pare che fosse, affascinato davanti a queste due cordate, una per via, che salivano, e io li invidiavo, per questa gente per me erano marziani, insomma, che riuscivano a fare delle cose incredibili, pur partendo dalla mia prestanza ginnica, perché ero già un ginnasta, però stare appesi là nel vuoto con in mano niente praticamente, insomma, è una cosa che mi turbava e mi affascinava. E arriva uno di qualche anno più di me, uno di Monza, e non ci conoscevamo naturalmente, mi sorprende così affascinato da queste due cordate e mi fa: ti piacerebbe provarci? Non desidero di meglio, dico io. Allora mi squadra, lui aveva la corda in spalla, me la butta lì e dice: ti porto io. Da questo incontro quasi casuale sboccia la passione alpinistica di Walter Bonatti. Sono andato ancora qualche volta alla Forte Liberi, ma ormai il mio destino, la mia attrazione era l'arrampicata, ed era la Grigna ovviamente. Da allora, dunque, questo accadeva nel 48, io avevo 18 anni. Dopo la palestra delle Grigne, l'alpinista dapprima ripete le vie de Tassis sulle Dolomiti e le Cassin alle Grand Jorasse e al Badile. La prima grande impresa è datata 1951. Dopo diversi tentativi, scala la terribile parete est del Grand Capucin, un impressionante obelisco di granito rosso nel gruppo del Bianco, a quota 3.838. In uno di questi tentativi, Bonatti bivacca in parete, sospeso nel vuoto, appeso alle corde, sorpreso da una tempesta. Quando finalmente l'alpinista lombardo doma il Grand Capucin, capisce subito che la sua vita, votata alla costante esplorazione dei suoi limiti interiori e fisici, deve fare i conti con il dolore e con la morte. Sua mamma muore di infarto per l'emozione causata, quel 20 luglio 1951, dalla sua leggendaria impresa sul Grand Capucin. Poi arrivano in sequenza la Guy Noir de Peuterie, l'invernale della cima grande e della cima ovest di Lavaredo, la cresta Furgen del Cervino, il Bianco, il Pizzo Palù. Fino al 1954, quando arriva la chiamata di Desio per il K2. Dal 18 al 27 gennaio e dal 16 al 26 febbraio 1954 si svolgono i campi di allenamento e selezione al Plateau Rosà e al Monte Rosa. Da qui esce la Nazionale dell'Alpinismo, di cui anche Bonatti entra a far parte. Nel marzo 1954, quando tutto è pronto per la partenza, il contributo governativo che deve arrivare attraverso il CNR non arriva come invece previsto e slitta di parecchi mesi. Per non far saltare la missione, il Consiglio centrale del CAI, assumendo la piena responsabilità morale e finanziaria della spedizione, si impegna a intervenire nelle operazioni finanziarie transitorie. Il Club Alpino accende un mutuo di 25 milioni con la fideiussione di 23 consiglieri o soci, finanziamento che verrà estinto con l'arrivo del contributo statale. La spedizione può partire, Bonatti anche. Torniamo alla mattina del 30 luglio, quando, come concordato, Compagnoni e Lacedelli salgono, Bonatti e Gallotti scendono. I primi devono fissare il nono campo base, in un punto stabilito con i compagni, ai quali è riservato il compito più gravoso: scendere, prendere al settimo campo le bombole e i viveri, per più di 20 kg di peso, e risalire fino al nono campo. Giunti al settimo campo, Bonatti e Gallotti si ricongiungono con Abram, uno degli altri alpinisti, e due portatori, di nome Madi e Isakan. In cinque, dividendosi il carico, ripartono per l'ottavo campo. Procedendo lentamente a fatica, il quintetto giunge all'ottavo campo. Ma la strada non è ancora stata interamente percorsa. Devono arrivare da Compagnoni e Lacedelli. Manca ancora la risalita verso il nono campo. Gallotti è stremato per lo sforzo. Abram è provato dalla durezza del giorno prima. I più in forma sono Bonatti e Madi. Sono loro a partire verso il nono. A Madi viene proposta una ricompensa in denaro e gli viene illusoriamente fatta intravedere la possibilità di raggiungere la cima. È a questo punto, però, che qualcosa va storto. Alle 16.30, stremati, Bonatti e Madi giungono nel luogo stabilito per il nono campo. Ma la tenda di Compagnoni e Lacedelli non c'è. Li chiamano a gran voce. Una timida risposta, ma non si comprende da dove provenga. Inizia la ricerca, con una domanda. Perché il campo è stato fissato in un luogo diverso da quanto stabilito? Perché una cosa così sciocca? La sera, intanto, scende. Quello che succede dopo è noto e rientra nella mitologia dell'alpinismo, con le sue controversie e la lunghissima coda polemica. Bonatti e Madi non trovano il bivacco, ma l'alpinista lombardo si rifiuta di tornare indietro per non lasciare senza ossigeno i due compagni. Quando scende la notte, la situazione è ormai disperata. Lacedelli si fa vivo. Prima si accende una luce, nell'oscurità. E poi domanda. Avete l'ossigeno? Lasciatelo lì e tornate giù! È impossibile rientrare, è troppo buio. Inoltre Madi è stremato. Bonatti non può far altro che scavare un buco nella neve e i due bivaccano a 8.000 metri di quota, dopo aver lasciato poco più sopra le bombole. Il giorno dopo scendono all'ottavo campo, distrutti, disperati, increduli. Intanto, Compagnoni e Lacedelli, recuperate le bombole, salgono in vetta alle 18.30 della sera del 31 luglio. Si ritrovano tutti nel campo base per festeggiare. La vittoria però ha un sapore amaro per Bonatti. Sarà ancora più amaro al ritorno in patria e la sua vita cambierà per sempre. La dimensione della sua esplorazione interiore passerà da verticale a orizzontale. E sarà condotta attraverso straordinarie imprese in solitaria. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini Incrociati. Il 31 luglio del 1954, l'Italia può celebrare il successo della spedizione al K2. Achille Compagnoni e Lino Lacedelli hanno conquistato la vetta della seconda montagna più alta del mondo. L'Italia può finalmente vantare un riconoscimento internazionale nel campo della corsa alla conquista alle vette, che la allinei alle grandi imprese alpinistiche di Francia, Inghilterra e Germania. Per Walter Bonatti, però, che con il suo coraggio e la sua forza ha reso possibile quell'impresa, le cose vanno diversamente. Non è solo quella notte da incubo, trascorsa bivaccando nella neve a 8.000 metri, a cambiare la sua vita. L'odore della morte mescolato all'aria rarefatta dei ghiacci pakistani. Anzi, come dice il grande scalatore Reinhold Messner, è soprattutto il trattamento che lo scalatore riceve in seguito, a cambiarlo nel profondo. Quello che è successo lassù, ma soprattutto il trattamento che ha ricevuto dopo, hanno cambiato per sempre Walter Bonatti. L'hanno trasformato in ciò che è adesso. Desio che l'ha pianificata. Bonatti, che con spirito di sacrificio ha permesso a Lacedelli e Compagnoni di raggiungere la vetta mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Questi dovrebbero essere gli eroi. Non è così. Due anime coraggiose portano l'Italia in cima al mondo. Compagnoni e Lacedelli completano l'impresa. Due eroi conquistano la vetta. Per essere sicuri di vedersi intestato tutto il merito dell'impresa, Compagnoni e Lacedelli sminuiscono l'importanza di Bonatti. Arrivano ad accusarlo di aver messo a rischio la riuscita della scalata, avendo utilizzato l'ossigeno destinato a loro e avendolo poi lasciato in un luogo diverso da quello concordato. Tutto il falso si imperniava sul fatto che i due della cima avevano detto che l'ossigeno era venuto meno, anzi addirittura mi hanno imputato di essere stato io a consumarlo. Compagnoni e Lacedelli, in poche parole, accusano Bonatti di aver fatto di tutto per andare personalmente in cima, dimenticando l'obiettivo comune. Non solo il contrario della verità, ma anche il contrario dello spirito dell'alpinismo, che dovrebbe essere uno sport che chiama sincerità, trasparenza, umiltà. Per oltre 50 anni il CAI non riabilita Bonatti. Per 50 anni Bonatti, capita la lezione, spinge l'esplorazione dei propri limiti in un'altra direzione, orizzontalmente, e soprattutto da solo. Come dice Reinhold Messner in uno dei suoi libri. Bonatti si è difeso, ha avuto ragione, ma non ha avuto soddisfazione. È difficile demolire tanti pregiudizi. È forse questo il motivo per il quale è diventato un solitario, sempre più chiuso in se stesso. È rimasto deluso per sempre, nel profondo del cuore. Bonatti ha però ora alle spalle una vita di successi. Solo la ferita del K2 è rimasta aperta. Bonatti, quindi, diventa il primo vero grande avventuriero, esploratore, corrispondente, che predilige e porta avanti imprese in solitaria. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Per l'alpinista lombardo ci sono comunque avventure straordinarie da raccontare. Con l'alpinismo chiude definitivamente nel 1965, con un'impresa che gli vale una medaglia della Presidenza della Repubblica, il Cervino, in invernale, dalla parete nord. Nei 10 anni tra il K2 e il Cervino, una serie di altri successi alpinistici, assolutamente straordinari, nelle Ande, nel Karakorum, nell'Himalaya. Ma qualcosa si rompe. E Bonatti così sposa definitivamente la dimensione in solitaria. Ma io ho continuato a fare dell'alpinismo. Perché il mio esprimermi, quello che era avvenuto sulla montagna, è avvenuto anche dopo, in giro per il mondo. L'avventura è stato un mezzo per, non fine a se stesso, per conoscermi, per sapere chi ero e cosa volevo. È stata la trasposizione del verticale in un mondo orizzontale a 360 gradi, ma... per vivermi. Cioè, io ho raccontato l'uomo che è in me. Lunghi viaggi nei 5 continenti. Straordinari articoli per il settimanale Epoca, dove la sua firma compare accanto a quella di altri prestigiosi collaboratori, come Enzo Biagi o Filippo Sacchi. Oltre 20 libri, con una forza e una vitalità che a quasi 80 anni sembrano immutate. Mi sembra di avere 200 anni, per l'intensità delle cose vissute. Per altri versi, mi sembra di averne 20. Perché l'entusiasmo non mi è mai mancato. Questo lo reputo per me una fortuna. Compagnoni e Lacedelli vivono la loro vita da alpinisti, uomini di montagna. Dopo quella gloria effimera tornano alla quotidianità. Non hanno certo la personalità e la forza di Bonatti. Il destino che li ha fatti incrociare ad alta quota li fa spegnere nello stesso anno, il 2009. Due grandi alpinisti in ogni caso, protagonisti nel bene e nel male di un'impresa straordinaria, se ne vanno insieme. Dopo 50 anni, come una beffa, arriva la riabilitazione. Il CAI accetta ufficialmente quello che tutti già sapevano, cioè la versione di Bonatti, su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, di veleni e di polemiche. Dopo 54 anni, la verità sulla conquista del K2 è stata ufficialmente, ecco, riconosciuta. In che cosa consisteva? Non, come si è detto per 50 anni in Italia, riconoscere il merito di Walter Bonatti. Io non avevo bisogno di questo riconoscimento. Io avevo impugnato la storia falsa della conquista del K2, l'avevo impugnata per dare verità e dignità alla conquista della seconda montagna del mondo. Insomma, Walter Bonatti, forse proprio grazie a quell'incrocio amaro e pericoloso, ha portato avanti una splendida ricerca interiore che non accenna a fermarsi. Nessuno può dire in che direzione sarebbero andate la vita e la carriera di Bonatti se quel 31 luglio su quella vetta fosse salito anche lui. Il destino scrive trame imprevedibili, indecifrabili, che non lasciano spazio ai se e ai ma, e che in questo caso ci hanno regalato un uomo straordinario.